Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Loca loca telli telli, loca loca telli telli, ed è gol all'incrocio. Qual è la novità degli ultimi giorni che riguarda Luigino? Ha una difficoltà strutturale a leggere le mail, non riesce a leggere, non le capisce, si confonde. Confonde il congiuntivo con il condizionale. E è notoriamente uno sfaccendato, nel senso che non ha mai lavorato in vita sua. Sulla base di queste caratteristiche, voi gli domandate: tu che vuoi fare da grande? E lui risponde: il presidente del Consiglio. Luigino comunica al popolo che ha speso a maggio 13.000 euro, il mese di maggio, spesi per iniziative sul territorio. Io pensavo che avesse deciso di fare il cantoniere, di ripulire le cunette, no, di spalare il terreno delle frane del cilento. Dice: fate l'iniziativa del territorio. Che sono queste iniziative del territorio? Le cene, i pranzi, i viaggi? No. Allora è confermato che siamo di fronte ad atti di pura cialtroneria. De Luca, De Luca, nella sua Lira TV, che non è sua ma un po' sua evidentemente, dove c'è il giornalista che va lì e lui muto si fa le domande e si dà le risposte, il Vincenzone De Luca del lunedì. Buongiorno signori, non capisco il come mai questo ascoltatore mi dice: un diciottenne ha castigato i gobbi e viva Milan. A che cosa si riferisce? Non ho capito. Colasso di Locatelli, colasso! Stavolta io, come sempre peraltro, al lunedì ho piazzato un Marione ad Inolfi, ma stavolta gli ho detto venerdì: questa volta mio figlio Mattia gioirà. E lui diceva no, e lui diceva ecco. Poi, se c'era un dubbio di interpretazione, era gol? Sicuramente Benatia non partecipa. Ma no, è annullato questo. Marione, l'ha annullato quello della Juve, 1-0, giusto? Fallo scaldare Mattia, che tra un po' gioca lui, mi sa. No, vabbè, Che vergogna, insomma. Che vergogna, dai. Brutta. Ti prego, prenditela con gli arbitri, dai, che uno brutta, juventino brutta, che si lamenta con gli arbitri è proprio bello, è un'immagine bella. No, è uno stato confusionale in cui avete gettato questo paese. Il vostro clima di sospetto permanente, questo è una fotografia dell'Italia, purtroppo. La vittoria di quella massa di pippe che siete, è una cosa che succede, vabbè. Con la squadra primavera abbiamo perso. Vabbè, sono cose che capitano. Dai, sono cose che capitano. Ma segniamo subito, così lo mettiamo su Twitter: massa di pippe. Così hai definito, sì, esatto, il Milan. No, esatto. Questa massa è il 5 stelle del campionato, diciamo. Il 5 stelle del campionato, va bene. Ok, così ti facciamo passare una bella giornata su Twitter con i tifosi del Milan e anche i sostenitori del 5 stelle. Ti abbiamo inguaiato. Va bene, dai. Però vedi, la classe è che adesso passiamo oltre. Non bravo, ti chiedo... bravo, perché io rosico ancora come matto da 2 giorni. Quindi benissimo, parliamo di referendum. Ma tanto vincerete il campionato con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Questo mi pare evidente, non era neanche in discussione. Guarda, l'arroganza degli juventini. Intanto per ora. Va bene, insieme a Mariona Dinolfi voglio salutare Carletto Rienzi, il quasi omonimo che ci viene a ritrovare. Buongiorno, presidente nazionale del Colacons, ce l'ha con tutti, anche X Factor. Che vi ha fatto X Factor, Rienzi? Buongiorno, buongiorno. Che vi ha fatto X Factor? Ma non so, hanno fatto un macello lì nelle votazioni, le cose. Sì. Non lo so, mio figlio lo guarda, è sempre lì, mi ha detto che non ci sono macelli. Insomma. Dice che è tutto un po' così, insomma, un po' truccatino, un po'. No, no, dai, no, no. Addirittura, addirittura. Va bene, dai, apriamo il Parlamento, apriamo il Parlamento. Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, forza, gente, accorrete... Cioè, Mario Rinolfi è venuto qui lunedì per parlare di referendum, ha detto, l'ho sentito testuale. È vero, quello che vuoi, Bob Dylan, quello che vuoi, non trovo gli argomenti. Va bene, va bene. Allora, sì, sì, parla. No, tra un attimo, dai, parliamo di referendum. Prima c'è questa cosa. Ieri Renzi è andato alla Luce Annunziata in mezz'ora e ha parlato di questa cosa degli stipendi dei parlamentari, tra l'altro, no? Sai che c'è questa proposta del 5 Stelle di volerli pagare, come dire, no, Renzi li vuole pagare a cottimo, in pratica, no? In base alle presenze. E eccolo qua, Renzi, sentite un po'. Anziché dare, qualunque sia l'indennità, l'indennità piena, non diamo l'indennità sulla base delle presenze in aula. Le dico un nome a caso, Luigi Di Maio ha il 37% delle presenze in aula. Eccolo lì, paghiamolo il 37% delle presenze. Uno a caso, ne ha preso uno, il primo che gli è venuto in mente, così. Marione, tu venivi pagato, come funziona questa cosa? Dai, raccontaci inside. I parlamentari in realtà fanno, insomma, le votazioni le fanno quelli normali, diciamo, perché c'è già un meccanismo di... legato alle presenze in aula, insomma, tu perdi un po' di soldi tutti i giorni se non vai in aula, quindi, tranne insomma, lunedì, casualmente il lunedì non si mettono mai le votazioni, non c'è aula, esatto, casualmente e anche il venerdì, cioè, anche il venerdì, certo. Il parlamentare è vero, lavora dal martedì, diciamo mezza mattinata, giovedì pomeriggio, ma io, eppure io mi ricordo il primo giorno di legislatura, me lo ricordo come fosse ieri, Grasso e Boldrini lì da Floris, allora c'era Floris Ballarò, faremo lavorare i parlamentari dal lunedì al venerdì, bravi! Tre applausi! Giorni settimana, tre giorni, siamo neanche pieni, diciamo, abbastanza scandaloso. Sì, sì, no, me lo ricordo bene, però devi poi stare attento perché c'è un minimo di sovrapposizioni di commissioni di aula. Io devo dire, il mestiere del parlamentare, mi è capitato di farlo, se lo fai seriamente è un mestiere importante, serio, non è una cosa che... secondo me va pagato 8 euro l'ora, non vai a fare la colpa, insomma, sì. Cioè, è una cosa molto complicata se la fai seriamente. Mi capirò di fare il relatore d'aula su una legge complicatissima, come una legge sostanzialmente di riconoscimento dei trattati europei, è una cosa di una complicata. Hai dovuto studiare, insomma, studiare. No, tanto, insomma. Ed era bello perché io ero appena arrivato parlamentare, mi sono seduto in commissione e tu fai il relatore su questa, non mi andava a nessuno di farla, io ero tutto contento, ma avevo capito qual era il gioco, è come a scuola, scaricavano si sul... Si doveva lavorare, si tocca, cioè è arrivato il pirlone, facciamolo lavorare. In realtà era solo qui. Rienzi, è arrivato quello che c'aveva l'entusiasmo. Sono pochi quelli che lavorano veramente, allora c'è una massa di parlamentari che non fanno niente, che vanno lì a votare per ordine del loro partito, e altri che lavorano seriamente, che lavorano, si impegnano, studiano e quant'altro. Ma questo non significa che debbano avere dei privilegi come, che ne so, le spese telefoniche, la pensione dopo pochi anni. Vabbè, ho capito, se uno non lavora almeno sta al telefono. Se no come passi il tempo? Le spese di viaggio, per andare all'aeroporto. La diaria tutti i giorni, cioè, insomma, è una cosa. Vabbè, ma questa ipotesi di perché domani i 5 Stelle faranno anche un po' di show, ci sarà Beppe Grillo, tutti in aula perché hanno fatto questa proposta per decurtare gli stipendi, ma verrà rinviata dopo il referendum. Questo racconto, e Renzi contropropone a dire, no? Fa parte della campagna referendaria. Ci siamo stufati. Basta. Dichiaro ufficialmente che siamo stufi di questa campagna referendaria tutti e sul nostro, so. E nessuno ci capisce nulla. Teniamo no, beh, nessuno ci capisce il nulla. Confronto tra le norme di garanzia della Costituzione come era prima e come adesso. Beh, insomma, ci teniamo duro, il 4 dicembre alle porte. Tra l'altro Renzi ieri, appunto, dalla Luce Annunziata ha annunciato questa cosa di Equitalia con, in un modo, come dire, altamente istituzionale. Equitalia non c'è più. Cucù, Equitalia non c'è più da 1 luglio. Cucù, Equitalia non c'è più. Cucù. Ma questa è proprio una fesseria, proprio. Vabbè, no, ma dai, Adinolfi, cucù, Equitalia non c'è più. Questo fa un po' intristire tutti, insomma, lo capisco. Comunque, devo dire che Renzi fa una battaglia uno contro tutti, questo è, e sviluppa tutti i modi della battaglia uno contro tutti, quindi si sente accerchiato, ha le sue reazioni forti, sa che se vince è l'incasso della vita, quindi ovviamente la battaglia complicatissima per lui, no? Perché si gioca praticamente tutto in una sola, è una cosa abbastanza rara in politica, che un uomo politico si giochi tutto su una cosa sola. Sì, ma perché tu sei di quelli che pensa si dimette? Se... Lascia stare, si dimette o no, però il rentismo vincente davanti a una battaglia del genere in cui potrà dire ho combattuto contro tutti i partiti, da Adinolfi a Renzi al 5 Stelle a Forza Italia a tutte le leghe, tutte le opposizioni possibili, e ho vinto io. Tu immagini a Renzi dopo aver vinto, cioè, lascia stare, se ti fa cucù oggi immagina cosa ti fa dopo che ha vinto il referendum. Effettivamente è un po' così. Intanto c'è quest'altra proposta, ieri l'ha fatta il viceministro Casero sul Corriere della Sera. Questa cosa piacerà a Renzi, uno che ama tanto il gambling, il gioco d'azzardo, le lotterie, le cose. Renzi ha visto cosa ha fatto Casero, cosa ha proposto ieri, no, sul Corriere della Sera. Ma dai, quella la lotteria degli scontrini, un gran classicone. Quella non è del tutto sbagliata, ma non perché fomenta il gambling o altro, ma perché effettivamente è un sistema, siccome gli italiani sono malati di gioco, e poi se pensano di essere pure fortunati, può essere un modo per far rilasciare gli scontrini. Cioè l'idea è questa, tenete lo scontrino e dietro noi registriamo questo scontrino e poi viene sorteggiato uno scontrino, questo per invogliare i cittadini ovviamente a chiedere lo scontrino, no? Contro noi l'evasione fiscale. Avevamo fatto un'altra proposta, che era quella di sorteggiare a fine anno una categoria solo di fornitori, per esempio gli idraulici, i dentisti, gli avvocati, eccetera, e quelli, chi aveva quegli scontrini li poteva defalcare dalle tasse, in modo che poi tutti erano portati a farsi lo scontrino da tutti per la ricevuta fiscale. Vabbè, quindi questo non dispiace a Renzi, al Codacons. Quindi questo no, non ci dispiace, non ci perché dispiace. È un sistema che naturalmente denuncia sempre l'incapacità dello Stato di combattere un'evasione fiscale, c'è fisiologica, va contrastata. Non ci possiamo fare niente, su questo. Però si dica che gli altri sono condoni, ecco, questo lo fatto che Renzi continua a dire non è un condono, questo mi fa proprio veramente tenerezza, ma anche un inganno, perché gli italiani devono sapere che è un condono, poi tanto gli italiani i condoni gli piacciono, chi ha paura lui? Vabbè, Marione, a te piace, tu sei un gambler, quindi figurati questa storia di mettere lì. Torna ogni tanto. Ieri non hai letto il Corriere perché non volevi leggere i giornali di Milano. Tu. Sì, sono abbastanza in silenzio stampa da 2 giorni. Non compro la Gazzetta. A Milano, pure le radio che mettono da Milano. Sì. Vabbè, figurati quelli che si chiamano Milan proprio. Sì, esatto. Che ti chiamano lunedì. Quindi, il bambino, quello che si sta scaldando per giocare la prossima, lui può giocare. Guarda che ieri, lascia perdere, l'ho messa anche su Twitter la foto di spalle, ieri alle 9 del mattino si è presentato tutto vestito da Cristiano Ronaldo con scarpe e tacchetti a giocare a calcio in casa. Sul parquet, in casa, se capisci. Ha visto Locatelli, ha detto allora pure io. Esatto. Yeah. Vabbè, vi lascio al traffico con il Brunetta del giorno. Prima il Brunetta del giorno, eccolo qua, anche perché poi... Perché gli endorsement di Obama portano sfiga. Come sfiga hanno portato a Cameron vedere un presidente degli Stati Uniti che non sa una parola di italiano, che non ha letto certamente la schiforma di Renzi, come l'Italicum di Renzi, fare gli endorsement tra un bicchiere e l'altro al Premier, si fa per dire italiano, è una cosa indecente. Milan, mandami il traffico, Mandami il traffico, altrimenti a schifeo finisce. Il giovincello D'Alema ha dichiarato al TG che a causa dell'età gli anziani, i vecchi, sono tardi nel comprendere il quesito del referendum, ovvero non hanno capacità di comprendonio. Ma forse D'Alema parla per se stesso? Sei il Nostradamus del giornalismo italiano, bravo! Chi volta il culo al Milan, volta il culo al Pan. Perché la RAI è una schifezza, i telegiornali RAI sono una schifezza, le radio RAI sono una schifezza, l'informazione in generale sul referendum, la pubblicità più o meno occulta è da regime, è da Bulgaria di qualche decennio fa. Disse colui che spesso va in RAI, Mario Radinolfi, peraltro, Matteo Salvini. Hai sentito il proverbio milanese? Al Milano e parla, che tanto è brutto il milanese, mamma, brutto accento, è male dialetto anche. Niente, niente, quest'anno brutto, d'altronde a Milano va male alla Juve, esatto. Dovremmo giocarne altre due o tre a Milano, così a San Siro. Un giocate... marchio genetico verso la vostra brutta città. Ecco. Oggi c'era questa pioggerellina malinconica a Milano alle 5. Questo clima meraviglioso. Questo clima che ti mette bene. Ti mette bene. Allora, caro Carlo Rienzi, vi voglio far sentire una cosa che è la Soragina. La conoscete la Soragina? Pare che sia una comica, l'ho intercettata su Canale Italia. La Soragina è una che prende un po' in giro, però si presenta in maniera seria in questi talk show e prende un po' in giro. Sentite per esempio cosa dice di Renzi e del modo di fare la campagna elettorale sul referendum, Sì, che spiego perché dico che Renzi ha la funzione della virgola, no? Perché? E perché bisogna votare no? Adesso vi faccio un esempio. Lei pensa a una frase, no? Come? Non ho nessuno scopo e sono felice. Questa è la frase che ha un suo senso. Ma se mi metto la virgola, non ho nessuno, virgola, scopo e sono felice, capisce che il senso cambia. Allora... La Costituzione è cambiata, bisogna votare no. Questo qua ha capito che noi abbiamo una lingua che dove, mettendo la virgola nei posti giusti, e me la gira e me la conta come che vuole. Insomma, questa è la Soragina, la Soragina, la vede così. Vabbè, comunque, dai, Rienzi, voi non avete fatto ricorso per il referendum, cose... Sì, abbiamo fatto ricorso, mi sembrava... l'abbiamo fatto nel posto giusto, in Cassazione. Ma adesso... che tipo di ricorso è? Il 15... Beh, ricorso perché la Cassazione, che non ha, secondo noi... la competenza a stabilire il quesito, sì, ma solo a vedere le firme, se sono regolari, eccetera, ha detto una frase nell'ordinanza dicendo che il quesito era conforme alla legge, cosa che tutti ormai sono d'accordo a dire che non è così, perché mancano le norme annullate, quindi però la legge lo dice. Capito, ma adesso ma io vi voglio bene, Rienzi, ma digli qualcosa tu, Marioli, ma che c'entra il Codacons con i ricorsi? No, perché noi non facciamo un ricorso per il sì o per il no, per una volta, ma soltanto perché la gente deve essere, il cittadino, deve essere consapevolmente portato all'urna, cioè deve sapere quello che va a votare. Ma si informi, il cittadino, ma si informi. È un danno alla trasparenza e alla sua consapevolezza. Ma il cittadino ha tutti gli elementi per informarsi, legga i giornali, legga la riforma della Costituzione, guardi allora, la TV. Se ti faccio una domanda su una norma della Costituzione, mi sai rispondere? Ma no, infatti sarò un ignorante, ma sarà colpa mia, colpa mia. Noi abbiamo chiesto di consentire ai due comitati, quello del sì e quello di no, di distribuire ai seggi un foglietto con la spiegazione dal loro punto di vista. Cioè, uno va lì mezz'ora prima e fa il ripasso. Marione, ti piace? Tutti questi ricorsi? Io penso che i ricorsi li butterei tutti a mare, tanto i cittadini hanno perfettamente chiaro di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di politica. Il voto sarà un voto politico, è legittimo che sia un voto politico, quello che tutti ti dicono, se tu non capisci il contenuto, non sai tutti i 48 gli articoli cambiati, allora non puoi votare. Non è vero, stai votando politicamente è giusto che ci sia, rispetto alla, a una riforma voluta dal governo Renzi, anche un momento di valutazione del governo Renzi, e non c'è niente di male, non si allarmino i cittadini, se vanno lì e votano perché si ritengono ben rappresentati dal governo Renzi e votano sì o votano no perché non si considerano ben rappresentati dal governo Renzi, guardi, stanno facendo la cosa giusta, perché l'esito di questo referendum è politico. La cosa fondamentale che emerge, noi dobbiamo spendere un paio di miliardi dei soldi pubblici per fare un giudizio politico sul governo Renzi, scusa. Ma capito, la valutazione, allora abbiamo i referendum sulla Costituzione, almeno ha un risultato, no? Ma che ragionamento? Praticamente noi dobbiamo spendere questi soldi per dire se vogliamo Renzi al governo oppure no, tanto quello rimane lo stesso, se è un illuso. Ho capito, ma adesso il referendum è su cambiare la Costituzione, poi quella è una conseguenza politica che ci sarà, se mai. Ma è determinare la verità. Ma sai quanto costa fare questo referendum? Ma ho capito, costerà. Costa quando rifare le elezioni, facciamo le elezioni. E che facciamo? Cancelliamo il referendum? La Costituzione, proprio la Costituzione che si vuole cambiare, prevede che ci vuole il referendum. Ma va fatto per sapere se tu vuoi delle cose o non le vuoi sul nostro ordinamento, nel nostro Stato, nella tua vita. Sì. Non per sapere se vuoi Renzi o non vuoi Renzi, perché poi dici sì, lo voglio, ma in realtà tra due anni se trovi un altro. Io continuo a insistere, si vota. Di Nolfi al posto di Renzi, sai che disastro. Povero Di Nolfi, dai. A Di Nolfi sarebbe meglio, metterebbe per esempio per decreto legge tutte le vittorie della Juve. Oppure, esatto, la Juve gioca senza l'arbitro, farebbe no, questi. L'arbitro è Allegri. Un decreto Rizzoli. Decreto Rizzoli. Ma noi abbiamo la rubrica che da una settimana ci portiamo avanti. Abbiamo inaugurato e sta avendo un successo clamoroso, anche perché il soggetto ci regala degli elementi imprescindibili. La rubrica nuova è Lo psicologo di D'Alema. E noi ne abbiamo oggi due qui, di psicologi, ci devono spiegare dentro D'Alema cosa sta succedendo. Ieri l'inviata dell'Arena di Giletti è andato con degli agnolotti da D'Alema, agnolotti che erano il piatto forte della cena da Obama, e D'Alema non l'ha presa benissimo, eh. Come va? Bene. Volevamo sapere degli agnolotti, secondo lei, gli agnolotti dell'ultima cena... Vuole assaggiare. Io devo portare a spasseggio il cane. Ah, ok, allora dai. Non vorrei, siccome non vorrei litigare. Col cane o con me? Col cane. Ho detto che non vorrei litigare. No, ma le volevo. Gli ha buttato gli agnoletti. Agnolotti sì o no? Gli ha buttato gli agnoletti. Questo animale ha diritto a stare tranquillo. Io ho diritto alla mia tranquillità. Sto portando a spasso il cane e non posso essere intralciato da voi. E anche con gli agnolotti. Che non avete rispetto verso le persone. Gli ha buttato gli agnolotti per terra. Allora, dottora Di Nolfi, sediamoci sul lettino. Qual è il problema di D'Alema? Sto con D'Alema comunque. Qual è il problema di quell'altra? No. Ma che ferro pescato con gli agnolotti. Ma che era una giornalista, spero di no. Era quello che stavamo aspettando. Era giornalista con gli agnolotti. Mi prego. Vabbè, c'ha quindi... totalmente ragione D'Alema. Solidarietà al compagno Massimo. Ma che ma vengono lì con l'agnolotto, ma io sai che gli facevo volare. Ma sono personaggi tu te li magnavi, tu dai battuto, tu te li magnavi, sera no. Al limite quello, ma insomma no, è una cosa ma intollerabile, prende per il culo. Vabbè, niente, no, oggi lo psicologo di D'Alema, giustamente come deve essere uno psicologo, sta dalla parte di D'Alema. Rienzi, la prossima volta faccio fare lo psicologo di D'Alema a lei, che ci dà più soddisfazione, ci farà un ricorso su questo. Però vi devo salutare adesso, vi abbraccio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Anche stamattina andiamo a leggere il giornale di Milano, ma anche quelli di Roma e Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:20 minuti del mattino, in questa settimana che inizia ed è la 182esima decisiva per l'abolizione delle, delle province. Forza, animo, ottimismo, siamo qui con Carmelo Lauricella in regia. Il nostro Lorenzo Nespoli in redazione. Siamo pronti per la rassegna stampa di 24 mattino a leggere i giornali. Fiondiamoci. Patriciari, amicizia lunga. Capito? Capito? In questo lunedì 24 ottobre, i titoli intanto, l'apertura del Sole 24 Ore su casa, condominio, mobili, così cambiano i bonus del 2017, le super detrazioni riservate alla sicurezza antisismica e i lavori su interi stabili. Poi ci sono i quotidiani che aprono sul dibattito la manovra e i rilievi dell'Europa. Questo è il titolo, per esempio, del Corriere della Sera. È manovra, i rilievi dell'Europa. Oggi attesa la lettera. Dubbi sull'una tantum, sulle tante una tantum e spese strutturali per il sisma. Repubblica, ecco la lettera dell'Unione Europea. La manovra non va. La Stampa, Renzi sfida l'Unione Europea, la manovra non cambierà. Libero invece se la prende con l'Europa, siamo in mano ai gangster, questo è il titolo. Oggi dall'Europa arriverà una lettera di contestazione, ma i conti se sono sballati è colpa dell'Unione Europea. Devo dire che veramente appassiona, ormai io ho usato questa immagine come una partita del Bangladesh di cricket, questa cosa del dibattito che c'è ogni anno e poi vedremo come va a finire, ma veramente viverlo ogni giorno come una goccia cinese sulla fronte sembra la famosa tortura cinese, per l'appunto, se letto dai giornali. Il Messaggero, fisco, indagini su chi espatria, questo è il titolo di prima pagina. Vedremo altre aperture su altri quotidiani. Intanto voglio partire da quello che Repubblica mette a pagina 2-3, un'analisi del Censis che riguarda tutti gli italiani, il rapporto tra gli italiani e il cibo. Il titolo è La crisi a tavola. È una fotografia del Censis su come cambiano le abitudini alimentari degli italiani. Il buon cibo lo acquista solo chi può permetterselo. Questo mette a rischio la dieta mediterranea. Nel carrello, insomma, tornano le differenze di ceto. Dal pesce alla frutta, ecco su cosa si taglia. Caterina Pasolini racconta: il 12% delle famiglie ha tagliato la spesa alimentare, dove il pranzo che una volta univa gli italiani ora torna a dividerli per classi sociali. È arrivato il food social gap, racconta un'indagine del Censis. A causa della crisi, operai e pensionati hanno ridotto gli acquisti molto più delle famiglie benestanti. Così pranzi e cene diventano metro del divario che si approfondisce sempre di più tra nuclei a basso e ad alto reddito. Nell'ultimo anno 16,6 milioni di italiani hanno ridotto il consumo di carne, 10,6 milioni quello di pesce, 9,8 milioni la pasta, 3 milioni 600 mila italiani la frutta, 3 milioni 500 mila la verdura. E meno si guadagna, più si risparmia nella scelta del cibo. Negli ultimi 7 anni la spesa alimentare è diminuita in media del 12,2%. Ma nelle famiglie operaie è crollato del 19,4%, tra i disoccupati è crollato del 28,4%. E c'è un'intervista al presidente del Censis, Giuseppe De Rita, che dice: si rinuncia a una bistecca e non allo smartphone nuovo, sono cambiate le priorità. La crisi ha imposto una restrizione dei consumi, in particolare nelle fasce più basse. È anche vero però che dovendo rinunciare a qualcosa si possa ritenere più importante avere un nuovo cellulare che la carne in tavola tutti i giorni. Io lo chiamo arbitraggio. Usiamo questo termine per dire che siamo sempre più arbitri del nostro modo di spendere i soldi. Faccio un esempio. Se il budget è ridotto, è probabile che una famiglia preferisca andare al discount o tagliare il consumo di pesce, ma non rinunciare allo sport per i figli o alla settimana in vacanza. Pensate all'abbigliamento. Oggi si spende sempre meno ed è quasi tutto low cost. Dunque, se ci si trova a commentare il fatto che sul cibo buono si taglia, ma non si taglia sull'ultimo smartphone, risponde De Rita: per me è un errore, ma ognuno appunto è arbitro dei propri consumi. Utilizza questo termine, arbitraggio. Beh, è un'inchiesta che potrebbe fare riflettere, questa su Repubblica, anche sul taglio della tavola, taglio dei cibi comprati dagli italiani. A proposito di tagli, domani alla Camera si preannuncia un giorno di quelli, come dire, anche abbastanza spettacolari dal punto di vista proprio dello show. Pare che Beppe Grillo sarà alla Camera, dicendo anche venite tutti alla Camera, tutti i militanti del Movimento 5 Stelle ovviamente, perché si discute domani, ma il Corriere della Sera fa già sapere che verrà rinviata dopo il referendum dal Partito Democratico la proposta di legge per decurtare gli stipendi dei parlamentari, proposta di legge del Movimento 5 Stelle. E qui ci sono polemiche. Ieri Renzi, che è andato da Lucia Annunziata in mezz'ora, ha proposto, ha fatto una controproposta in qualche modo per prendere il centro dell'attenzione su questa iniziativa. Ha detto tagliamo gli stipendi e leghiamoli alle presenze, e ha citato per esempio il numero di presenze di Di Maio, 37%, in realtà il calcolo fa sapere il giorno, secondo dati Open Police è sbagliato perché è al netto delle missioni. Comunque ci sono effettivamente i più presenti, Cinzia Fontana del Partito Democratico, 99,99% delle presenze, praticamente sempre. Così Giuseppe Guerini del PD, 99,98%. Tino Iannuzzi del PD, 99,91%. Mentre al Senato i più presenti sono Carlo Pegorer del PD, Federico Fornaro pure del PD e Giuseppe Cucca, anche lui del PD. I più assenti, Antonio Angelucci, alla Camera, Forza Italia, 0,44% di presenze, 0,44%. Carmelo, fai lo 0,44% di presenze, anche tu a Radio 24. Vediamo un po' che stipendio ti arriva a fine mese. Marco Martinelli, Forza Italia, l'8,65%, e Francantonio Genovese, 9,89%. Questi alla Camera. In Senato, i più assenti, Nicolò Ghedini, è presente lo 0,85% delle volte. Verdini, il 10,75%, e Tremonti, 18,33%. Comunque, Renzi propone questo, paghiamoli in base alle presenze. Lo scontro tra il Premier e Di Maio, domani probabilmente ci sarà uno scontro, qualcosa anche in aula. Tra l'altro, come fa sapere Dino Martirano sul Corriere della Sera, nonostante, ve lo ricorderete anche voi, il primo giorno della loro elezione, Boldrini e Grasso in diretta televisiva a dire faremo lavorare dal lunedì al venerdì i parlamentari, Senato e Camera, applausi del pubblico, cioè applausi a certificare quello che tutti gli italiani fanno da anni, lavorare almeno 5 giorni alla settimana, c'è chi ne lavora 6, c'è chi ne lavora anche 7. Comunque, questo avevano detto, sono passate 182 settimane, per l'appunto, dall'inizio della legislatura, e ancora, come scrive il Corriere della Sera, di solito il lunedì alla Camera sono pochissimi i deputati che seguono in aula la discussione generale. 10, 20, 30, quando va bene. E ascoltano il relatore mentre tutti gli altri saltano la seduta. Perché si giustificano i partiti? Sono nei collegi a curare il territorio. In realtà, a voler essere pignoli, andrebbe ricordato che lunedì generalmente non si vota e dunque non scattano le multe per gli assenti. E infatti il martedì mattina alla Camera la musica cambia. Perché con l'inizio delle votazioni elettroniche l'effettiva presenza in aula viene tracciata dallo stesso deputato che si presenta al posto, inserisce la tessera nell'apposita feritoia, aziona i pulsanti, lascia l'impronta digitale e da questa procedura non si scappa, ed ecco allora che si materializzano tutti, e così il venerdì tutti via a curare il territorio, si capisce. Vabbè. Siamo all'articolo che mi fa pinzore della giornata. L'articolo da mani sul volante, se siete alla guida. È la vicenda, come racconta il Messaggero, abbiamo sentito anche il giornale radio, di Platì, Reggio Calabria, Italia, dove è un funerale in arrivo, funerale del boss dell''Ndrangheta Giuseppe Barbaro, morto in carcere a 54 anni, funerale per il quale il questore di Reggio Calabria ha disposto una cerimonia religiosa blindata. Il parroco Giuseppe Svanera insorge. L'ordinanza infrange il principio di non ingerenza tra Stato e Chiesa di cui all'articolo 7 della Costituzione. e fa ricorso. Il sottoscritto Svanera Giuseppe, in qualità di parroco della parrocchia Santa Maria di Loreto, presenta ricorso avverso l'ordinanza nella parte in cui si identifica il luogo ove svolgere il rito religioso del funerale del defunto Barbaro Giuseppe. Eccola qui la richiesta shock del parroco, esequie pubbliche per il boss. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan legge i giornali come sa fare solo lui. Beh, c'è un attimo di gelo in questo momento. Grazie caro ascoltatore, grazie mille. Allora mandate le vostre sigle al 349-238-6666. E, che dire, tra poco riprenderemo anche i nostri ascoltatori all'estero. Se ci ascoltate dall'estero continuate a scriverci via mail 24mattino@radio24.it. Intanto la questione dell'Unione Europea, la manovra, forse arriva questa lettera, dovrebbe arrivare oggi la lettera. Renzi ieri ha detto è fisiologico, non è importante, non è decisivo, così un po' a smitizzare questa idea dell'Unione Europea che ci guarda e ci controlla. Comunque, scrive Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, se ne parla da giorni, ma alla fine dovrebbe arrivare oggi la lettera della Commissione Europea all'Italia con le richieste di chiarimento su bilancio. Non siamo l'unico paese sotto la lente di Bruxelles, chiarimenti saranno chiesti anche a Belgio, Spagna, Portogallo, Estonia, forse pure a Francia e Olanda. Il governo italiano è pronto a rispondere che la loro portata è stata ridotta riguardo alle misure una tantum, limando che cosa? La rottamazione delle cartelle di Equitalia, eliminando di fatto il contante dalle nuove edizioni della voluntary disclosure. Un altro chiarimento sarà chiesto sul piano Casa Italia, il piano di incentivi per la messa in sicurezza antisismica degli edifici, che per Bruxelles è un intervento strutturale, non emergenziale, quindi non utilizzabile per ottenere un margine aggiuntivo di flessibilità. Per il governo italiano invece la messa in sicurezza è un'operazione anche di emergenza, perché l'Italia è un paese ad alto rischio sismico, come insegna il recente passato, quindi non è possibile escludere altre catastrofi nei prossimi anni. Ripeto, Renzi ha detto le lettere sono fisiologiche, non è importante, non è decisivo. Poi sulla cancellazione di Equitalia si è lanciato in una battuta poco istituzionale. Cucù, Equitalia non c'è più. Si è lanciato così. Sta di fatto che il dibattito è il solito. Stop alle una tantum, deficit solo al 2,2%. Ecco la lettera dell'Unione Europea, anche Repubblica con Alberto D'Argenio, in pratica anticipa questa lettera che arriverà. Per la stampa c'è invece qualcosa di più, c'è l'irritazione di Bruxelles. L'Europa rischia la fine non rispettando le regole. Sapete che Renzi, tra le altre cose, alzando un po' la voce, alzando un po' i toni, ha detto il problema non siamo noi, ma è l'Europa che preoccupa il mondo. E allora Marco Zatterin sente un po' gli umori a Bruxelles. L'Europa rischia la fine se le regole che gli stati si sono date non sono rispettate e perdono di credibilità. Eccola la voce che rompe il silenzio a cui Bruxelles è votata sulle questioni italiane, una voce imbevuta di asprezza. Suona irritata per il campionato di braccio di ferro a cui il governo Renzi sta costringendo le istituzioni europee sui numeri della manovra. I pochi che parlano si sentono traditi e confessano che Roma non ci sta aiutando ad aiutarla. Così ora potrebbe succedere di tutto. Con voi abbiamo usato ogni margine di flessibilità, assicura un pezzo grosso di casa Unione Europea, un po' seccato, un po' deluso. Il Premier protesta, va in giro a dire che per colpa nostra non costruirà le scuole di Amatrice. La realtà, giura, è un'altra, è che sulle spese di emergenza non ci saranno problemi. Ma il nodo è una manovra che, così come è presentata, solleva una serie di interrogativi quasi tutti strutturali. Questo inizia... Così inizia l'articolo di Marco Zatterin, che poi si addentra appunto nei meandri della manovra e nelle contestazioni che farà l'Europa. L'irritazione di Bruxelles, l'Europa rischia la fine non rispettando le regole. Lo trovate sulla stampa, inizia a pagina 1 e continua a pagina 3. Protesta anche Laura Boldrini dopo l'intervista di ieri di Repubblica al ministro dell'Economia Padoan. La presidente della Camera dice, beh, il Parlamento va tutelato, il governo si sbrighi e dia subito la manovra. non ho inteso fare polemica con nessuno, ma ho il dovere di garantire il buon andamento dei lavori. Mi preoccupo per questo ritardo, tanto più perché siamo di fronte a una nuova legge di bilancio di cui è nuovo anche l'iter. L'auspicio è che il provvedimento arrivi quanto prima, anche perché a rendere più complessa l'organizzazione c'è l'arrivo concomitante del decreto fiscale. Insomma, Laura Boldrini in questa intervista a Roberto Petrini sul quotidiano Repubblica dice non è ancora arrivata la manovra alla Camera e il governo si dia una mossa. Oh, ieri tra l'altro il vice ministro Casero sul Corriere della Sera ha lanciato questa idea, non nuova per la verità, non nuova, ma lui è competente sulle questioni tributarie, quindi la fonte è molto autorevole, degli scontrini gratta e vinci, no? L'idea che c'è in vari paesi, in Portogallo, ma anche in vari paesi nel mondo, di legare il ritiro dello scontrino a una sorta di lotteria vera e propria, nella quale poi si danno dei premi per incentivare le persone a chiedere lo scontrino. Il governo si dà alla riffa, scontrini gratta e vinci, racconta il giornale dopo l'intervista di Casero. L'ultima di Renzi è questa, ticket con gioco annesso contro l'evasione, ma altrove è stato un flop. Vedremo se questa può essere una soluzione o se è un annuncio a cui non seguiranno poi i fatti, staremo a vedere. Casero dice che dal 2017 si potrà fare. Mentre parte che cosa per quel che riguarda l'evasione fiscale? Marco Mobile e Giovanni Parente raccontano a pagina 5 del Sole 24 Ore, parte dalla Svizzera la nuova offensiva sui capitali all'estero. Dopo aver atteso che i contribuenti con capitali nascosti all'estero facessero il primo passo con la voluntary disclosure, ora è il fisco a muoversi. L'Agenzia delle Entrate sta preparando le richieste collettive di dati. In pratica, l'amministrazione finanziaria italiana busserà alle porte dei colleghi esteri per ottenere dalle banche dei loro paesi nominative e informazioni sui contribuenti italiani titolari di posizioni. Si parte dalla Svizzera, ossia paese da cui è emerso il 70% delle attività con l'ultima operazione di rientro dei capitali. Iniziativa che replica quelle già avviate da Olanda e Francia, e per le quali gli istituti di credito elvetici hanno avviato una formazione interna proprio per rispondere alle richieste. Dunque, cari italiani, si comincia, il fisco va in Svizzera, si comincia da lì per affrontare la questione di chi non ha eventualmente usufruito della voluntary disclosure. Leggete sul Sole 24 Ore a pagina 5. A proposito di sole, meno male che c'è il sole, anche se oggi piove a Milano, meno male che c'è l'Inter, meno male che c'è Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno, ma non abbiamo il consueto contributo audio per lo sfottò mattutino? Ma no, non lo so, no. Dai, oggi questa magari... Questa clemenza inusitata, no, da parte tua. Oggi per Locatelli, no. Posizione di tiro, Locatelli, Manuel! Questo vale per tutto, diciamo. Questo vale per juventini, interisti, tu, per tutti, dai, questo vale. Era sabato, va bene. Allora, invece, oggi essendo lunedì, sì, lunedì vado a leggere gli endecasillabi, yes, del lunedì. Vado, come dire, a cogliere, a sottolineare come equalmente tu abbia citato queste richieste del fisco che hanno ispirato il poeta stamani. Ah, insieme anche naturalmente a tutti i bonus per la casa, i mobili, il condominio. Ti ricordi che domani c'è il condominio? Come dei, no? Come te lo no? Sei segnato? Bravo, ovvio. Bravo, molto bravo. E poi le tasse universitarie, la babele delle tasse universitarie. E anche, scusa, il 30 anni del Sole 24 Ore del lunedì. Oggi sono 30 anni di edizioni del Sole 24 Ore il giorno di lunedì. Vabbè, ma tutto questo e molto altro troverai sul Sole. Vado a declamare. Vai. Per acque più lucrose, ambite mete, già corrono le missive delle entrate ed oggi noi portiamo notizie liete per chi le tasse sempre le ha pagate. Sono lettere cortesi agli banchieri elvetici e magari in Lussemburgo, dimandan se nei loro bei forzieri vi sia qualcun che voglia dir mi purgo. Mondato egli sarà privo di affanni, cogliendo la volontà rinovella, festeggerà con noi per i 30 anni di lunedì col sole, prima stella che guida i cittadini nel periglio dei bonus per la casa e il condominio, nei conti per la facoltà del figlio che fanno il genitor rosso carminio. E in questi versi trovi consolanza ogni fratello nerazzurro puro, per loro che sia breve ogni distanza. Per tutti gli altri sia traffico duro. Parte Piniglia. Col destro andando di stocca, ma non basta. L'Atalanta passa in vantaggio a 2 minuti e mezzo dalla fine. Alessandro Inter, il cugino vincente di Alessandro Milan. Infatti abbiamo lanciato in maniera un po' sottovoce questa cosa, ma vorrei davvero conoscere uno che di cognome, non nomi bizzarri, uno che di cognome faccia Inter. Se si può far vivo scrivendoci a 24 mattino e radio24.it, uno che di cognome faccia Inter, così magari facciamo un po' di show. Vabbè, allora andiamo all'estero. La polizia francese comincia a smantellare proprio questa mattina la giungla di Calais. La giungla è questo luogo dove vivono 8.000 persone accampate al campo di Calais, in uno spazio di 10 ettari, soprattutto migranti che arrivano da Afghanistan, Sudan, Siria. Ci saranno 1.000 agenti pronti a sgomberare, anche se, come si racconta per esempio nella cronaca di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera pagina 4, già il termine smantellamento è un termine un po' troppo violento, la polizia non vorrebbe usarlo, diciamo che si parla più di un'operazione innanzitutto umanitaria, questo fanno sapere dalla polizia francese, ma è anche chiaro che c'è il rischio che la situazione degeneri perché c'è chi protesta, alcuni degli immigranti stessi, come racconta anche Repubblica. Non abbattete la giungla, Abdul chiede questo, se mi cacciano da qui devo nascondermi da qualche parte, non posso restare in Francia perché ho mio fratello a Birmingham. Gli migranti, probabilmente anche ci saranno associazioni che si opporranno allo smantellamento di questo grande campo profughi, chiamiamolo così. In tutto questo, se vogliamo, per rimanere all'estero, andare appunto in Gran Bretagna, tutti i giornali raccontano che l'incertezza sui negoziati per la Brexit fa fuggire le banche dal Regno Unito. Brexit, timori per una fuga delle banche, lo raccontano un po' tutti i giornali. Dopo l'annuncio sale la preoccupazione degli istituti britannici, alcuni dicono i primi traslochi già verso Natale, i grandi gruppi traslocheranno nel 2017. E sia sul Corriere che sulla Stampa che su Repubblica trovo una pagina dedicata a questo. Per rimanere però a Londra, mi ha incuriosito questa vicenda, una vicenda su cui il Giorno dedica due pagine, pagina 14 e pagina 15. La proposta di legge che riguarda la pornografia online per il governo britannico. Carmelo, ti sei subito riaccolto l'attenzione qui. Come mai? Ti interessa il governo britannico? No. Allora, il governo inglese vuole vietare ai minorenni i siti a luci rosse, e questo è doveroso e già c'è, ma che cosa succede? Che nei siti a luci rosse spesso compare solo quella scritta se hai meno di 18 anni non puoi entrare. Uno basta che clicca e dice sì, ho 18 anni ed entra. Non un gran controllo, diciamo. E allora, cosa vuol fare il governo? Vuole fare una vera e propria database di Stato. Cioè, mettiamola così, schedare chi fruisce dei siti porno per controllare, loro dicono, per controllare che uno abbia veramente 18 anni, uno o una, abbia almeno 18 anni per entrare. Vedi porno online? Ti schediamo. La Stretta di Londra. Deborah Bonetti racconta la pornografia online, fenomeno dilagante, che in Gran Bretagna hanno deciso di correre ai ripari, il progetto di schedatura di tutti i fruitori di siti porno a livello nazionale. Lo scopo, appunto, è creare un archivio dei porno utenti digitali per proteggere i minorenni dall'uso di siti web indecenti. Sì, voi capite che magari lo scopo può essere anche uno scopo giusto, però è chiaro che si creano dei database nei quali ci sono le persone che vanno sui siti porno. Poi è facile che questi database vengano violati e vadano in mano a qualcuno, e poi chissà che succede. A proposito di porno, ragazzi, tutto si lega oggi. Trump! Oggi c'è la ex pornostar, è l'undicesima donna che si mette in fila le altre e dice «mi ha molestato». Jessica Drake, ex porno, no, non ex, boh, non so, l'attrice porno, viene definita così sul Corriere della Sera. No, non vorrei mancare di rispetto a Jessica Drake, probabilmente è ancora in attività. Uscita allo scoperto ieri, 11 le donne che accusano il candidato repubblicano. Tra l'altro guardate questa foto, la trovate, Jessica Drake col suo avvocato, è una donna, nel momento dell'accusa a Trump, l'avvocato è uguale a Hillary Clinton, uguale, anche proprio la pettinatura, il tipo di vestito, cioè l'avvocato di Jessica Drake, io l'ho visto, ho detto, ma che ci fa Hillary Clinton a fianco alla pornostar che è qua? Ah, no, è l'avvocato di Jessica Drake, uguale a Hillary Clinton, la potete trovare. Comunque Trump reagisce, adesso è lui arrabbiato, faccio causa a tutte. A tutte, non tutte le donne, a tutte le 11 che mi accusano di essere un molestatore. Voglio invece spendere una parola per questa iniziativa della Stampa, mette in prima pagina, è un'iniziativa a favore di un giornalista, racconta tutto Lucia Sgueglia, un giornalista che è in carcere dal 99 in Uzbekistan, si chiama Muhammad Bekjanov, 62 anni, cittadino dell'Uzbekistan, è il giornalista da più anni in carcere, 17 anni, detenuto nell'Uzbekistan dove ha regnato incontrastato Islam Karimov per decenni, e ora c'è una campagna per cercare di liberare questo giornalista che, racconta la Stampa, ha fatto solo il proprio lavoro, denunciare che cosa è successo nel regime, e invece è stato preso, incarcerato, torturato, e Human Rights Watch ha lanciato una campagna per la liberazione dicendo basta anche un tweet, basta una solidarietà, basta una mobilitazione internazionale, liberate il martire Bekjanov in Uzbekistan. La Stampa dedica una pagina a questa tematica, la faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina Facebook in questo momento. Oh, vabbè, siamo alla Gazzetta dello Sport. Ma che titolo un po' strano. De Burrone, giocando su De Boer e il burrone in cui sarebbe sprofondata l'Inter. De Burrone, precipita De Boer e può già saltare. Tra l'altro mi fa sapere Lorenzo Nespoli che esistono dei cognomi Inter. Effettivamente, vediamo in che comune, aspetta un attimo, ha trovato il comune Inter in provincia di Taranto. In provincia di Taranto ci sarebbe un comune nel quale ci sono persone che di cognome fanno Inter. Bah, vabbè, non lo so. Approfondiremo questa vicenda. Va bene, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Un'intera pagina della Stampa dedicata a coloro che vanno a cercare i primi amori, quelli che non si scordano mai, quelli che grazie magari ai social vanno a trovare gli amori delle elementari, dove vi siete dati i primi bacini. Ma chi se ne frega!